nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi arrivano anche da Laura Faggin, Isotta Scenna in redazione, Paolo Corleone alla parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi sono sempre le stesse, ma ve le ricordo: nessunluogo@radio24.it e la mail, gli sms al 349-238-6666. Cercateci su Facebook, il profilo è nessunluogolontano-radio24. Infine, se volete cinguettare sui temi di questa sera, Twitter è nessunluogo24. E allora il tema caldo di questa sera è tutto europeo, partiamo dalla Grecia. The large group of protesters had clashed with the police. The police are holding their ground right now. As you can see, there's fires behind me. Tear gas is in the air. It's a little bit difficult to breathe here. As you can see in front of me, the police are trying to hold their territory on the other side. The streets of Athens are quiet. E quelle che sentite sono le reazioni, le manifestazioni che sono avvenute ad Atene dopo l'uccisione di un rapper, di un artista di sinistra, Pavlos Fissas, ragazzo uomo, 34 anni, rapper, militante di sinistra, che è stato ucciso da un militante di Alba Dorata. E l'omicidio di Fissas sembra aver riportato una contrapposizione tutta politica, ma dagli profondi risvolti sociali in Grecia, che veramente sembra riportarci indietro di tanti tanti anni. L'ascesa eclatante dal punto di vista anche dei consensi di Alba Dorata viene in qualche modo suggellata da questo atto violento, le cui conseguenze sono ancora, come dire, tutte da definire, perché vi è stata la risposta ovviamente di tutti i gruppi di sinistra e della piazza, ma c'è anche grande, grande dibattito in Grecia. Per capire meglio i significati di questo tragico omicidio e le proteste che sono seguite, allora andiamo direttamente ad Atene con Margherita Dean. Margherita, buonasera, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buonasera, bentrovati. Allora, Margherita collabora con svariate radio, fra cui anche la Radio Svizzera, la Radio Popolare, la potete leggere su Lettera 43. Margherita, partiamo da questo omicidio, da quest'atto incredibile. Quanto, come dire, ha colto di sorpresa una tale inaudita violenza? Perché da un lato Alba Dorata ci ha abituati a esibizioni muscolari, a ronde contro gli immigrati e a, come dire, svariate prove di forza. Però un omicidio è un omicidio. È vero che Alba Dorata ha preso le distanze dal militante dicendo non c'entra nulla con noi, però insomma è il segno di qualcosa. In realtà questo omicidio era una morte annunciata per un osservatore mediamente attento, non attentissimo, nel senso che c'era stata per mesi, come hai detto giustamente, l'azione di Alba Dorata contro i migranti, che in alcuni casi è costata anche la vita a questi migranti, in almeno due casi registrati nel corso dell'inverno scorso, e per non parlare poi dei migranti finiti in ospedali. Una volta è stato addirittura ferito al viso un ragazzino afghano di 14 anni, quindi un minorenne. Ed era chiaro come ci fossero anche però attacchi contro avversari, fra virgolette, uso la parola avversari, politici, nel senso che anche giornalisti spesso sono caduti vittima di agguati, botte, insomma, nulla di più eclatante. C'è stato poco, però, pochi giorni prima dell'omicidio di Pavlos Fissas, un agguato teso a sindacalisti comunisti dei cantieri navali di Perama. Questo questo è stato un po' il segnale che qualcosa di grosso stava per arrivare. E è arrivato l'omicidio di Fissas, che, il cui padre, peraltro, è un operaio dei cantieri navali, è iscritto a quel sindacato, e lo stesso Fissas faceva l'operaio nei cantieri navali. Quindi, come dire, Alba Dorata aveva ultimamente, negli ultimi mesi, puntato la propria attenzione sul sindacalismo, e dico tantissimo dei cantieri navali perché Alba Dorata stessa, nella sua carriera parlamentare ma anche in piazza, ha spesso preso posizione a favore dei proprietari delle navi, quindi degli, sì, armatori. Siccome si sa ormai da tempo che ci deve essere qualche legame economico fra Alba Dorata e centri armatoriali greci, siccome questa cosa ovviamente non è provata, però è quasi certa, vista anche appunto il tutto scritto poi agli atti del Parlamento, nulla può essere un caso, tanto più che la stessa Alba Dorata ha dichiarato pubblicamente, ufficialmente, a Perama stesso, che è un quartiere vicino al Pireo dove ci sono tantissimi cantieri navali, che è colpa dei sindacalisti se i cantieri navali languono, è colpa degli scioperi. Sì. Ecco, quindi questo era il quadro, che... sì, il quadro in quale si è innestata questo omicidio. Ribadiamo, Alba Dorata ha preso le distanze da questo militante 43enne, 45enne che è stato appunto arrestato dalla polizia. Ricapitoliamo però meglio cos'è Alba Dorata e che cosa vuole. La Lega Popolare Aurora Dorata, più comunemente conosciuta come Alba Dorata, è un partito greco di estrema destra, di orientamento nazionalista, costituito dal suo leader Nikolaos Mikaloliakos nel 1980 e registrato nel 1993. Alle elezioni amministrative greche del 2010, Alba Dorata comincia la sua ascesa politica, ottenendo il 5,3% dei voti nel comune di Atene e guadagnando un seggio nel consiglio comunale della città. Mentre in alcuni quartieri, quelli con una più alta densità di immigrati, sfiora il 20%. Ma è con le elezioni parlamentari del maggio 2012 che, con lo slogan «Così possiamo liberare questa terra dalla sporcizia», intendendo con sporcizia le comunità di immigrati presenti in Grecia, che il partito entra per la prima volta in Parlamento e con il 6,97% delle preferenze ottiene 21 seggi su 300. Anche alle successive elezioni parlamentari del giugno 2012 ottiene un risultato simile, guadagnando 18 seggi. Oltre agli innumerevoli episodi di violenza da parte dei suoi militanti, il 7 settembre 2012 due deputati, insieme a un gruppetto di attivisti del partito, hanno devastato delle bancarelle gestite da immigrati, nell'indifferenza dei passanti e della polizia, e giustificando questo loro gesto con la necessità di combattere il commercio illegale. Il 7 giugno, sempre dello stesso anno, durante un dibattito televisivo sull'emittente ANT1, il portavoce di Alba Dorata e deputato Ilias Kasidiaris ha prima aggredito verbalmente la collega del partito Syriza gettandole addosso un bicchiere d'acqua e poi ha schiaffeggiato l'esponente comunista Liana Canelli, che era intervenuta in difesa della prima. Nessun pentimento, ma querela per diffamazione da parte di Kasidiaris rivolta alle due deputate. Ecco, questo anche per ribadire che, come dire, Alba Dorata non è nuova a, lo dicevano, esibizioni, chiamiamole muscolari, anche nei dibattiti televisivi, eccetera, eccetera. È evidente che la presa di distanza, in questo caso, dall'omicidio avviene perché è stata passata una linea rossa. Stiamo cercando di capire meglio che cosa c'è dietro alla crescita di un partito come questo, con Margherita Dean. Margherita, dicevi, allora, da un lato c'è tutta la questione del sindacalismo di sinistra, dell'industria cantieristica greca, e questo legame, questo filo rosso che legava appunto il rapper con i sindacati di sinistra. Questo non basta però per spiegare quello che è accaduto. Alba Dorata ha sempre battuto sulla presenza degli immigrati vissuti con grande allergia, insomma, negli slogan c'era ripuliamo il paese, eccetera. Però forse nemmeno questo basta a spiegare un 17% che viene dato nei sondaggi se andasse a votare adesso. Che cosa spiega realmente questa ascesa di un partito neonazista? Beh, sicuramente la crisi economica è il detonatore di un malessere, però secondo me precedente, cioè la crisi da sola non basta a spiegare perché un elettore greco arrivi a votare Alba Dorata, sapendo che cosa vota, perché Alba Dorata non ha mai nascosto la propria identità ideologica, la propria appartenenza al nazismo, voglio dire. Sono i deputati di Alba Dorata, sono la maggior parte di loro tatuati con la svastica, quindi c'è poco da credere che soltanto sia un voto contro il sistema, un voto di protesta, eccetera. Secondo me qui il discorso è ovviamente più complesso, ha a che fare da un lato con la crisi politica che ha innescato la crisi economica, cioè la sfiducia assoluta e totale a questo punto verso le istituzioni democratiche, sfiducia molto pericolosa che denuncia però il fatto come ci sia una sorta di maturità democratica da parte degli elettori, se non altro di Alba Dorata. Si può spiegare secondo me questo attraverso vari passaggi storici che prendono inizio però secondo me dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove la lotta alla resistenza ha dovuto passare la resistenza stessa, i protagonisti della resistenza sono dovuti passare attraverso 4 anni di guerra civile. Sì. In quei 4 anni quelli che avevano fatto la resistenza come da sinistra hanno perso, e alla fine della guerra sono dovuti scappare o nascondersi nelle famiglie di sinistra, non si parlava di politica. Margherita, perdonami, il Partito Comunista era illegale. Sì. Quindi, come dire, in un certo senso si è annacquata l'orgoglio della resistenza. Sì. Έξω από το κτίριο, τσεκ, 1, 2, 3, η ομάδα όντως μία. Εξήλω 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα νεκυχτό βασίλειο. E la voce, quella che sentite, è quella di Pavlos Fissas. Non la sentiremo più perché nella notte tra il 17 e il 18 settembre è stato ucciso da un militante di Alba Dorata. Il rapper era un militante di sinistra. Un omicidio annunciato, dice Margherita Dean, che è in collegamento con noi da Atene, e ci ha svelato in qualche modo il filo rosso che legava l'attività di militanza di questo artista con anche i sindacati, e ci ha aiutato a capire meglio come quella questione, quella dei grandi cantieri, in qualche modo potrebbe essere parte di questo omicidio. Alba Dorata si è dissociato ovviamente, ma Margherita ci stava aiutando a ricostruire quella che è un tassello fondamentale della storia greca per comprendere meglio che cosa sta accadendo adesso e cosa potrebbe succedere. Dicevi, Margherita, ancora buonasera, come quel braccio di ferro, quella guerra civile, quella lotta fra comunisti e fascisti in Grecia in realtà non si è mai risolta completamente, forse c'è un rigurgito in questo momento. Non si è mai risolta completamente, non c'è mai stato un racconto collettivo valido, è una storia che più che altro viene taciuta, c'è ancora molta difficoltà a raccontarla. E poi c'è stata la dittatura e quelli che hanno partecipato alla lotta contro la dittatura, chiamati la generazione del Politecnico, ricordandola i fatti del Politecnico nel novembre del 73 che portarono poi alla lunga alla caduta dei colonnelli nel luglio del 74, sono molti di loro diventati i leader politici che hanno retto la Grecia negli ultimi 40 anni e che hanno portato la Grecia allo stato in cui si trova tutt'oggi. Quindi a torto o a ragione vengono accusati in toto tutti gli allora democratici di essere colpevoli della crisi economica e quindi è chiaro come così si liberano spazi vuoti che Alba Dorata, ahimè, è riuscita a coprire, aspetti più contingenti, più pratici come il degrado nel centro storico di Atene, che è stata abbandonata anche dalle forze della polizia per anni al suo destino e quindi lì ha agito Alba Dorata che ha intessuto, è stata molto capace in questo, una fitta rete di presenza, per cui insomma in certi quartieri di Atene sei sicuro che c'è qualcuno che osserva chi entra ed esce. Chiarissimo. Margherita, un'ultimissima domanda prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro. Quanto credi che questo omicidio possa esacerbare ancora di più gli animi e portare, per carità facendo i debiti scongiuri, ma a un'escalation di violenza? Ma io per adesso l'escalation di violenza credo che se non altro sia frenata da parte di Alba Dorata. La risposta dell'opinione pubblica è stata molto forte, anche oggi ci sono state manifestazioni in memoria di Pavlos Fissas, antifasciste. Il governo stesso ha preso delle misure, per cui il ministro della pubblica sicurezza ha mandato il fascicolo Alba Dorata al giudice inquirente chiedendo che venga applicata la normativa antiterrorismo, quindi qualche cosa sembra muoversi al momento e spero che siano mosse decisive non soltanto ovviamente da parte del governo ma anche da parte della società, che tutti si rendano conto di cos'è Alba Dorata. Grazie allora Margherita Dean per essere stata con noi, buona serata, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Mr. Pretani, grafuma. 2012, Penny Jekyll, Kill a Pete, Delta Million. Λες έξαν το χασάπτικο στη γειτονιά μου. Για μερικά ψηλά και ένα μικρό κοτόπουλο. Ρόχα μάτια λέω θα δούμε Παναγιά μου. Σε λίγο θα ληστεύουνε τα σπίτια για ένα μπρόκολο. Questa è la complessa situazione in Grecia di questi giorni dopo l'omicidio del rapper. E adesso però voglio cambiare argomento. In realtà non ci spostiamo di tantissimo, andiamo in Turchia. Andiamo in Turchia perché pensavate che la questione Gezi Park fosse conclusa, vero? No, non è che siccome non compare più in prima pagina, sei colonne, quello che accade a Istanbul, la questione si sia risolta, tutt'altro. Allora, siccome in Turchia c'è tanta carne al fuoco, ci affidiamo a chi vive lì, chi la racconta quotidianamente. Alberto Tetta, buonasera, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a te e a tutti. Allora, Alberto, corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso, in più collabora anche con TM News e quindi insomma racconta quotidianamente, facendosi anche qualche nottata, quello che accade a Istanbul. Partiamo dalle ultime proteste, perché come dire, l'attenzione mediatica si era spenta, no, un po' su quello che era accaduto a Gezi, e poi però la questione lì è ancora aperta. Sì, certamente, dopo qualche settimana di calma, in cui le manifestazioni sono calate, a partire dal 9 settembre, quando il sesto manifestante antigoverno è morto ad Antakya, nel sud del paese sono ripartite le manifestazioni e questa nuova ondata di protesta è stata anticipata sia dal movimento contro l'intervento turco in Siria, sia è partito con la mobilitazione degli studenti dell'Università Tecnica del Medio Oriente di Ankara, che stanno protestando contro la costruzione di una strada che dovrebbe attraversare il loro campus, di nuovo diciamo in una situazione simile a quella del Parco Gezi, comportando la demolizione di molti alberi. Quindi è iniziata così la mobilitazione e sta continuando in questi giorni, di pari passo però continua anche quella che è iniziata diciamo già a fine giugno, quella che potremmo chiamare una resa dei conti dal punto di vista repressivo e giudiziario del governo che sta coinvolgendo chi ha partecipato alle manifestazioni di questi mesi. Ecco, fra l'altro suona bizzarro, no? Che, come dire, si sia scoperchiato in qualche modo il vaso di Pandora sulla Turchia, partendo da opere edilizie pubbliche che vanno a toccare l'ambiente. Sembra, come dire, un po' un grimaldello, una leva, un pretesto per invece, no, far sentire la propria voce a tutto tondo da parte della società civile. Sì, certamente, ma perché l'ipersviluppo urbanistico e anche i fenomeni di tipo speculativo sono poi la metafora del modello di sviluppo che la Turchia ha adottato in questi anni, quello che Erdogan sta portando avanti dal 2002 in poi è un modello economico di liberista molto, molto, molto radicale, ha fatto una scelta molto chiara in questo senso e se diciamo che dal punto finanziario, dal punto di vista economico appunto si è rischiato molto anche nel settore edilizio e nel settore delle costruzioni, anche questo ipersviluppo e queste costruzioni, questo edificare continuo fa parte dello stesso piano. Quindi sì, sono facce della stessa medaglia. Sì. Ecco, Alberto, un altro tema ovviamente molto caldo è la Siria, la crisi siriana. È notizia abbastanza fresca della presa di controllo da parte di un posto di frontiera Turchia-Siria da parte di militanti legati ad Al-Qaeda. Nel frattempo Erdogan sta continuando a schierare truppe al confine. Qual è la situazione e come l'opinione pubblica sta vivendo questi giorni, queste settimane, dopo che il minacciato intervento statunitense è ormai sfumato? Bene, allora il 4 ottobre, prima di tutto partiamo dal dato, la notizia che il Parlamento turco voterà la nuova autorizzazione all'esercito a reagire a qualsiasi minaccia che proviene dalla Siria. Questo è un voto di routine, ma comunque si aprirà un nuovo dibattito in questo senso. La Turchia è un paese molto esposto al conflitto in corso, sappiamo che condivide con la Siria 900 chilometri di confine e proprio il conflitto all'interno dell'opposizione siriana, dei gruppi che stanno lottando contro Assad, preoccupa molto Ankara. La zona nord della Siria, il nord della Siria è conteso tra il libero esercito siriano, i gruppi vicini ad Al-Qaeda che si trovano nel centro-nord e invece a nord-est gli autonomisti curdi del PYD. Gli scontri e gli scambi, insomma gli scontri armati tra fazioni rivali spesso poi arrivano oltre confine e hanno causato più volte morti nei villaggi di frontiera con la Siria, in territorio turco. Ecco, Alberto, sì, perdonami, ti interrompo perché c'è l'informazione sul traffico, poi ti farò l'ultima domanda perché mi preme sapere Dopo 2 anni e mezzo di guerra civile siriana lì al confine, così vicina, no? Come la percezione e come l'opinione pubblica turca sta cambiando opinione, se lo sta facendo, rispetto al dossier siriano? Nessun luogo è lontano. Ancora buona serata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Nessun luogo è lontano. Questa sera è partita dalla Grecia con l'omicidio del rapper antifascista per fotografare la situazione della penisola ellenica, complessa dal punto di vista politico, sociale ed economico, per poi spostarsi di qualche chilometro, arrivare in Turchia, dove forse non ve ne siete accorti perché i giornali hanno un po' dimenticato la questione Gezi, ma con Alberto Tetta da Istanbul stiamo capendo meglio quanto le proteste ancora siano vive e in corso. E poi c'è il dossier siriano, che è un nodo nello stomaco per tutti i paesi che confinano con la Siria, ma per la Turchia ovviamente è il paese in prima linea, il paese principe, fra l'altro fa parte della NATO, e quindi vive, anche per la fortissima presenza di tanti rifugiati siriani sul territorio, vive ovviamente sulla propria pelle quella che è l'evolversi della crisi siriana. Alberto, dicevamo, quanto l'opinione pubblica, come è cambiata l'opinione pubblica turca rispetto alla crisi siriana? Sì, la Turchia, come sappiamo, il governo Erdogan è tra i paesi più interventisti sul fronte siriano. Davutoğlu, quando ha incontrato a Parigi il ministro degli esteri Fabius lo scorso 16 settembre, si è detto insoddisfatto della trattativa in corso e ha spinto di nuovo per la creazione di una no-fly zone e di un intervento. La società civile turca però e l'opinione pubblica sono sempre più preoccupati che l'interventismo di Ankara possa avere conseguenze molto, molto gravi sulla stabilità del paese. Parlavamo prima della situazione al confine, e infatti ci sono state, da quando nelle scorse settimane si è cominciato a parlare di un intervento dopo la crisi sulle armi chimiche, l'attacco a Damasco, è nato un movimento contro l'intervento. Ci sono state manifestazioni a Istanbul, ma anche nell'est del paese, perché anche la comunità curda è contraria a un intervento di Ankara in Siria, e quindi diciamo che sta crescendo nell'opinione pubblica un no alle politiche, alle scelte in politica estera del governo anche sul caso siriano. Sì. Senti Alberto, la sensazione, però correggimi se sbaglio, è che in qualche modo, allora, dopo le proteste, Gezi eccetera eccetera, la Turchia sia stata un po' bollata col marchietto nero da parte dell'Europa, no? In questo lungo e lento avvicinamento da parte del paese all'Unione Europea, ma non è che questo interventismo da parte di Erdogan è un po' un modo per riavvicinarsi ai francesi ad esempio, ma anche comunque all'Occidente in generale, per dire insomma guardate, io sono con voi, se si attacca la Siria sono qua in prima linea? È una lettura forzata o secondo te fa parte del gioco politico? No, certamente il governo Erdogan ha giocato molto della sua popolarità, della sua immagine a livello internazionale sul ruolo della Turchia nella regione, capacità e la possibilità di mediare nelle crisi regionali, quindi certamente il ruolo che in effetti la Turchia ha può essere utilizzato da Erdogan a livello internazionale per mostrare come la Turchia sia importante, come il fattore turco sia ineludibile se si vuole arrivare ad una soluzione non solo in Siria, ma anche per esempio per quanto riguarda la questione palestinese o il nord Iraq o l'Iran per esempio. Chiarissimo. Quindi di sicuro questo fattore c'è. Grazie mille. Allora Alberto Tetta, corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso, collabora anche con TMN News. Buona serata, buon lavoro Alberto, alla prossima. Buona serata a voi. E da quell'attacco alla Siria ventilato e poi sfumato a tutt'altro attacco, ma il filo rosso che lega l'ospite precedente a quello che vi introduco in questo momento è Osservatorio Balcani e Caucaso. Luca Zanoni, direttore della testata. Luca, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a voi. Allora, direttore, c'è stata un attacco di ben altro tipo. Raccontaci che cosa è accaduto negli ultimi giorni al tuo osservatorio. L'attacco, l'inizio effettivo risale alla metà di agosto, 16 agosto. Abbiamo avuto un attacco seguito da un altro senza alcuna rivendicazione, non sapendo effettivamente il motivo dell'attacco. Il 16-17 ottobre molto intenso e con rivendicazione, inizialmente una rivendicazione via mail dicendo appunto che voleva che togliessimo degli articoli, 4 articoli in particolare. Ecco Luca, il tema della corruzione. Perdonami, ti interrompo perché devo precisare, quando parlo di attacco ovviamente non è un attacco fisico ma è un attacco hacker, il vostro è una testata web. DDoS, è un attacco specifico che praticamente rende inoperativo e non raggiungibile il sito. Ecco, stiamo cercando di difenderci da questi attacchi continui, ce n'è in corso uno adesso che è iniziato alle 17. Ecco, dicevi alcuni articoli incriminati, di che cosa scrivevate in quegli articoli e a proposito di quali paesi? Gli articoli sono vari, riguardano la Bosnia, la Cecenia, la Croazia e l'Azerbaigian, sono tutti con focus tematico sulla corruzione, risalgono tra l'altro a 2-3 anni fa, quindi non sono materiali recenti che abbiamo pubblicato. E infatti non si capiva il motivo, ha insistito dicendo appunto elencando questi 4 articoli, noi abbiamo pensato che l'articolo più sensibile possa essere appunto quello sull'Azerbaigian, e questo perché generalmente di corruzione nei Balcani se ne parla abbastanza e in Azerbaigian invece non se ne parla proprio, anzi è una cosa che viene messa a tacere anche con attacchi di tipo informatico. Ecco, se noi andiamo su Osservatorio Balcani Caucaso, l'indirizzo è balcanicaucaso.org e andiamo su Azerbaigian, possiamo leggere l'articolo. Quando dici vi state difendendo, Luca, in estrema sintesi, che cosa significa? Avete degli esperti, immagino, che sì, si stanno adoperando? Che lavorano per noi, ovviamente non siamo colossi come Corriere della Sera e Repubblica.it, però siamo abbastanza ben attrezzati, ecco. Sono 13 anni che facciamo questo lavoro e cerchiamo di farlo, insomma, non solo onestamente da un punto di vista giornalistico, ma anche fatto in modo professionale. Il webmaster e anzi i webmaster ci stanno lavorando, hanno cercato di mettere in sicurezza il sito, ovviamente è tutto molto delicato. Chiaro, non mi resta che farti i più grandi in bocca al lupo. Luca Zanoni dirige Osservatorio Balcani e Caucaso, buona serata, buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Grazie. E non mi resta che ringraziare Isotta Scenna, Laura Fagin che sono in redazione, Paolo Corleone la parte tecnica, voi ovviamente per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è per sabato prossimo ore 19:15 con l'ultima puntata di Nessun Luogo Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.